L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Quattordicesima puntata. La pazzia di Orlando. Lettura poetica di Arnoldo Foà. Narratore Gianni Bonagura. Orlando sta aspettando Mandricardo perché ha con lui una questione in sospeso. Avevano cominciato un duello per il possesso della spada d'Urlindana, che il re di Tartaria pretendeva per sé in quanto era stata di suo padre Agricane. Ma il cavallo di Mandricardo aveva preso la mano al padrone e l'aveva portato via a corsa sfrenata. Orlando aveva lasciato detto che avrebbe aspettato il suo avversario in quei paraggi per 3 giorni e 3 notti, e già da 2 giorni stava cavalcando in su e in giù, ma di Mandricardo neanche l'ombra. Orlando passeggiava in riva a un rivo. Vede che i tronchi degli alberi sono pieni di scritte e incisioni. «Però io questa scrittura la conosco», pensa Orlando, e come fa chi s'annoia, prende distrattamente a decifrare le parole. Legge Angelica, ma certo, è la sua firma. Angelica era passata di lì. Intorno alla firma di Angelica, cuori trafitti, nodi che s'allacciano, colombe. Angelica innamorata. E di chi mai? Orlando non ha dubbi. Se si innamora, non può innamorarsi che di me. Ma su quei cuori, su quei nodi, c'è un altro nome accoppiato a quello d'Angelica. Un nome sconosciuto. Medoro. Perché Angelica ha scritto quel nome? Perché ha scritto il nome di qualcuno che non si sa chi sia, di qualcuno che non esiste? Forse, pensa Orlando, nelle sue fantasticherie amorose, Angelica mi ha soprannominato Medoro e scrive Medoro dappertutto perché non osa scrivere Orlando. Entra in una grotta. Le pareti di roccia erano tutte istoriate di graffiti e frasi tracciate col carbone o coi gessetti colorati o incise col temperino. Tutte in alfabeto arabo, si capisce. Orlando, esperto in quella lingua, tante volte s'era tratto d'impaccio nelle sue spedizioni oltre le linee nemiche. Quel che c'è scritto dunque per lui è chiaro, eppure vorrebbe dubitare di quel che sta leggendo. C'è scritto in una calligrafia diversa da quella d'Angelica: «Oh, star qui con la principessa Angelica abbracciato mattina e sera, oh, come bello», firmato Medoro. Orlando riflette. Dunque, se Medoro sono io, e non sono stato io a scrivere questo, allora Angelica, fantasticando di star qui abbracciata con me, deve essersi messa a scrivere queste cose con una calligrafia maschile per rappresentarsi quel che io avrei provato. La spiegazione era ingegnosa, però non stava in piedi. Ormai l'ipotesi che Medoro fosse un suo rivale, Orlando non riusciva più a scartarla. Un rivale sfortunato, naturalmente, che per dar sfogo alle sue fantasie e per calunniare la donna che l'aveva respinto, aggiungeva il proprio nome là dove Angelica aveva firmato i suoi messaggi d'amore per Orlando. Di nuovo andava troppo lontano. Qualsiasi spiegazione tentasse, a un certo punto il ragionamento d'Orlando si rifiutava di seguire la via più semplice e il pianto che già gli faceva groppo in gola si fermava lì. Sale in sella. Si dirige a una cascina di pastori, chiede asilo per la notte. Ma intorno al letto, sui muri, perfino sul soffitto, sempre quelle scritte. Non c'era verso di chiudere un occhio. «Non puoi dormire, cavaliere», e il pastore, udendolo smaniare, venne a sedersi al suo capezzale. «Se vuoi, ti racconto una storia che più bella non si potrebbe immaginare. Ed è una storia vera. Pensa che in questa povera casa sarà venuta a rifugiare una principessa dell'Oriente». Orlando è tutto orecchi. «E questa principessa aveva raccolto sul campo di battaglia un povero fante ferito, un ragazzotto biondo». E il pastore racconta a Orlando esterrefatto tutta la storia degli amori d'Angelica e Medoro e delle loro nozze. «Proprio in quel letto dove stai sdraiato tu, cavaliere, la principessa e il fantaccino passarono la prima notte di nozze». Orlando salta su come punto da una vespa. «Non mi credi, cavaliere? Guarda cosa ci ha regalato a noi poveretti la principessa partendo per il Katai con il suo sposo!» E mostra un braccialetto tempestato di gemme. Era il braccialetto che Orlando aveva regalato ad Angelica in pegno d'amore. «Ehi, fermati, cavaliere, dove vai?» Orlando era montato in sella e cavalcava nella notte urlando. Pianse tanto che si disse: Queste non possono essere più lacrime, perché ormai devo averle versate tutte. Quello che viene dagli occhi è l'essenza vitale che mi sta abbandonando. Sospirò tanto che si disse: questi non possono essere sospiri, perché non si fermano mai. È certamente il mio cuore che sta bruciando ed esala questo vento come per la cappa d'un camino. Soffrì tanto che si disse: questo non posso più essere io, perché Orlando è morto, ucciso da Angelica. Io sono il fantasma di me stesso che non potrà più trovare pace. All'alba si ritrovò alla grotta dove Medoro aveva inciso la sua confessione. A colpi di durlindana sbriciolò la roccia nelle acque della fonte, che si intorbidarono per sempre. Poi si coricò sull'erba, spalancò gli occhi al cielo e restò immobile 3 giorni e 3 notti senza mangiare né dormire. Al 4° giorno s'alzò, prese a spogliarsi e a gettare i pezzi d'armatura ai 4 punti cardinali. Restò nudo e senza armi. Cominciò a svellere un pino, poi una rovere, poi un olmo. Da quel momento la pazzia d'Orlando prese a crescere, a scatenarsi, a infuriare sui campi e sui villaggi. Lo strano corso che tenne il cavallo del Saracin pel bosco senza via fece che Orlando andò 2 giorni in fallo, né lo trovò né poté averne spia. Giunse ad un rivo che parea cristallo, nelle cui sponde un bel pratel fioria di nativo color vago e dipinto e di molti e belli arbori distinto. Il merigge facea grato l'orezzo al duro armento e al pastore ignudo, sì che né Orlando sentì alcun ribrezzo che la corazza avea, l'elmo e lo scudo. Quivi egli entrò per riposarvi in mezzo, e v'ebbe travaglioso albergo e crudo, e più che dir si possa empio soggiorno, quell'infelice e sfortunato giorno. Volgendosi ivi intorno, vide scritti molti arbuscelli in sull'ombrosa riva. Tosto che fermi v'ebbe gli occhi e fitti, fu certo esser di man della sua diva. Questo era un di quei luoghi già descritti, ove sovente con Medor veniva da casa del pastore indi vicina la bella donna del Catai regina. Angelica e Medor, con 100 nodi legati insieme e in 100 luoghi vede, quante lettere son, tanti son chiodi, coi quali amore il cor li punge e fiede. Va col pensier cercando in 1000 modi non creder quel che al suo dispetto crede, ch'altra angelica sia creder si sforza ch'abbia scritto il suo nome in quella scorza. Poi dice: conosch'io pur queste note, di tali ho tante vedute e lette. Finger questo Medoro ella si puote, forse che a me questo cognome mette. Con tali opinion dal ver remote, usando fraude a se medesimo, stette nella speranza il malcontento Orlando, che si seppe a se stesso ir procacciando. Ma sempre più raccende, più rinuova, quanto spenger più cerca il rio sospetto, come l'incauta ugel che si ritrova in ragna o in visco aver dato di petto, quanto più batte l'ale e più si prova di disbrigar, più vi si lega stretto. Orlando viene ove s'incurva il monte a guisa d'arco in sulla chiara fonte. Aveano in sull'entrata il luogo adorno coi piedi storti edere e viti erranti. Quivi soleano al più cocente giorno stare abbracciati i 2 felici amanti. V'aveano i nomi lor dentro ed intorno più che in altro dei luoghi circostanti scritti qual con carbone e qual con gesso e qual con punte di coltelli impresso. Il mesto conte a pie quivi discese e vide in sull'entrata della grotta parole assai che di sua man distese Medoro avea, che parean scritte a lotta, del gran piacer che nella grotta prese. questa sentenza in versi avea ridotta, che fosse culta in suo linguaggio, io penso, ed era nella nostra tale il senso. Liete piante, verdi erbe, limpide acque, spelunca opaca e di fredde ombre grata, dove la bella Angelica, che nacque di Galafron, da molti invano amata, spesso nelle mie braccia nuda giacque. Della commodità che qui m'è data, io, povero Medor, ricompensarvi d'altro non posso che d'ognor lodarvi, e di pregare ogni signore amante e cavalieri e damigelle e ognuna persona o paesana o viandante che qui sua volontà meni o fortuna all'erbe, all'ombre, all'antro, al rio, alle piante dica benigno abbiate sole e luna e delle ninfe il coro che proveggia che non conduca a voi pastor mai greggia. Era scritto in arabico, che il conte intendea così ben come latino. Tra molte lingue, molte che avea pronte, prontissima avea quella, il paladino. E gli schivò più volte, e danni, e tonte, che si trovò tra il popolo saracino. Ma non si vanti se già n'ebbe frutto, cun danno ornà che può scontargli il tutto. 3 volte... e 4 e 6 lesse lo scritto quello infelice, e pur cercando invano che non vi fosse quel che v'era scritto, e sempre lo vedea più chiaro e piano, ed ogni volta in mezzo il petto afflitto stringersi il cor sentia con fredda mano. Rimase al fin con gli occhi e con la mente fissi nel sasso, al sasso indifferente. Fu allora per uscir del sentimento, se tutto in preda del dolor si lassa. Credete a chi n'ha fatto esperimento che questo è il duol che tutti gli altri passa. Caduto gli era sopra il petto e il mento, la fronte priva di baldanza e bassa, né poté aver che il duol l'occupò tanto alle querele voce o umore al pianto. L'impetuosa doglia entro rimase che volea tutta uscir con troppa fretta, così veggian restar l'acqua nel vase che largo il ventre e la bocca abbia stretta, che nel voltar che si fa in su la base l'umor che vorria uscir tanto s'affretta e nell'angusta via tanto s'intrica che a goccia fuoresce a fatica. Poi ritorna in sé alquanto e pensa come possa essere che non sia la cosa vera, che voglia alcun così infamare il nome della sua donna, e crede e brama e spera, o gravar lui di insopportabil some tanto di gelosia che se ne pera, ed abbia quel, sia chi si voglia stato, molto l'aman di lei bene imitato. In così poca, in così debol speme, sveglia gli spirti e gli rinfranca un poco, indi al suo brigliadoro il dosso preme, dando già il sole alla sorella loco. Non molto va che dalle vie supreme dei tetti uscir vede il vapor del fuoco, sente cani abbaiar, muggiare armento, viene alla villa e piglia alloggiamento. Languido smonta e lascia Brigliadoro a un discreto garzon che n'abbia cura. Altri il disarma, altri gli sproni d'oro gli leva, altri a forbir va l'armatura. Era questa la casa ove Medoro giacque ferito e v'ebbe alta avventura. Corcarsi Orlando e non cenar domanda di dolor sazio e non d'altra vivanda. Quanto più cerca ritrovar quiete, tanto ritrova più travaglio e pena, che dell'odiato scritto ogni parete, ogni uscio, ogni finestra vede piena. Chiederne vuol, Poi tien le labbra chete, che teme non si far troppo serena, troppo chiara la cosa, che di nebbia cerca offuscar perché men nuocer debbia. Poco gli giova usar fraude a se stesso, che senza domandarne è chi ne parla. Il pastor, che lo vede così oppresso da sua tristizia e che vorria levarla, l'istoria nota a sé che dicea spesso di quei due amanti a chi volea ascoltarla, che a molti dilettevole fu a udire, gli cominciò senza rispetto a dire. Come esso a preghi d'Angelica bella portato aveva Medoro alla sua villa, che era ferito gravemente e che la curò la piaga e in pochi dì guarilla, ma che nel cor d'una maggior di quella lei ferì amor e di poca scintilla l'accese tanto e sì cocente fuoco che n'ardea tutta e non trovava loco. E senza aver rispetto che ella fosse figlia del maggior re che abbia il Levante, da troppo amor constretta si condusse a farsi moglie d'un povero fante. All'ultimo l'istoria si ridusse che il pastor fe portar la gemma innante ch'alla sua dipartenza per mercede del buon albergo Angelica gli diede. Questa conclusion fu la secure che il capo a un colpo gli levò dal collo, poi che d'innumerabil battiture si vide il manigoldo amor satollo. Celar si studia Orlando il duolo, eppure quegli fa forza, e male asconder puollo, per lacrime e sospir, da bocca e d'occhi, convien, voglia o non voglia, al fin che scocchi. Poi ch'allargare il freno al dolor puote, che resta solo e senza altrui rispetto, giù dagli occhi rigando per le gote sparge un fiume di lacrime sul petto, sospira e geme, e va con spesse ruote di qua di là tutto cercando il letto, è più duro d'un sasso, è più pungente che se fosse d'urtica se lo sente. In tanto aspro travaglio gli soccorre che nel medesimo letto in che giaceva l'ingrata donna venutasi a porre col suo trudo più volte esser doveva. Non altrimenti or quella piuma borre né con minor prestezza se ne leva che dell'erba il villan che s'era messo per chiuder gli occhi e vegga il serpe appresso. Quel letto, quella casa, quel pastore immantinente in tant'odio gli casca che senza aspettar l'una o che l'albore che va innanzi al nuovo giorno nasca piglia l'arme e il destriero ed esce fuori per mezzo il bosco alla più oscura frasca e quando poi gli avviso d'esser solo con gridi e turli apre le porte al duolo. Di pianger mai, mai di gridar non resta, né la notte né il dì si dà mai pace, fugge cittadi e borghi e alla foresta sul terren duro al discoperto giace, di sé si meraviglia ch'abbia in testa una fontana d'acqua sì vivace e come sospirar possa mai tanto e spesso dice a sé così nel pianto, queste non son più lacrime che fuore stillo dagli occhi con sì larga vena. Non suppliron le lacrime al dolore finir, che a mezzo era il dolore appena, dal fuoco spinto ora il vitale umore, fugge per quella via che agli occhi mena, ed è quel che si versa e trarrà insieme il dolore e la vita, all'ore estreme. Questi ch'indizio fan del mio tormento, sospir non sono, né i sospir son tali, quelli han triegua talora, io mai non sento che il petto mio men la sua pena esali. Amor che marde il cor fa questo vento mentre dibatte intorno al fuoco l'ali. Amor, con che miracolo lo fai che in fuoco il tenghi e non il consumi mai? Non sono io quel che paio in viso. Quel che era Orlando è morto ed è sotterra. La sua donna ingratissima l'ha ucciso. Sì, mancando di fe, gli ha fatto guerra. Io son lo spirito suo, da lui diviso, chi in quest'inferno tormentando si erra, a ciò con l'ombra sia che sola avanza, esempio a chi in amor pone speranza. Pel bosco errò tutta la notte il conte, e allo spuntar della diurna fiamma lo tornò il suo destin sopra la fonte dove Medoro insculse l'epigramma. Veder l'ingiuria sua scritta nel monte l'accese sì che in lui non restò dramma che non fosse odio, rabbia, ira e furore, né più indugiò che trasse il brando fuore. Tagliò lo scritto e il sasso e sin al cielo a volo alzar fe le minute schegge. Infelice quell'antro ed ogni stelo in cui Medoro e Angelica si legge, così restar quel dì ch'ombra né gelo a pastor mai non daran più né a gregge. e quella fonte, già sì chiara e pura, da cotanta ira fu poco sicura, che rami e ceppi e tronchi e sassi e zolle non cessò di gittar nelle bell'onde, finché da sommo a imo sì turbolle che non furo mai più chiare né monde. E stanco al fin, e al fin di sudor molle, poiché la lena vinta non risponde allo sdegno, al grave odio, all'ardente ira, cade sul prato e verso il ciel sospira. Afflitto e stanco al fin, cade nell'erba e ficca gli occhi al cielo e non fa motto. Senza cibo e dormir, così si serba che il sole esce tre volte e torna sotto. Di crescer non cessò la pena acerba che fuor del senno al fin l'ebbe condotto. Il quarto dì, da gran furor commosso, e maglie e piastre si stracciò di dosso. Qui riman l'elmo e là riman lo scudo, lontan gli arnesi e più lontan lo sbergo, l'arme sue tutte, insomma, vi concludo, avean pel bosco differente albergo. E poi si squarciò i panni e mostrò ignudo l'ispido ventre e tutto il petto e il tergo, e cominciò la gran follia, sì orrenda che della più non sarà mai chi intenda. Signor, nell'altro canto io vi dicea che il forsennato e furioso Orlando, trattesi l'arme e sparse al campo, avea squarciati i panni, via gittato il brando, svelte le piante e risonar facea i cavi sassi e l'alte selve. Quando alcun pastori al suon trasse in quel lato lor stella o qualche lor grave peccato. Viste del pazzo l'incredibil prove, poi più d'appresso e la possanza estrema, si voltan per fuggire. Ma non sanno ove, siccome avviene in subitanea tema, il pazzo dietro lor ratto si muove, uno ne piglia e del capo lo scema con la facilità che torria alcuno dall'arbor pome o vago fior dal pruno. Per una gamba il grave tronco prese e quell'usò per mazza addosso al resto, in terra un paio addormentato stese che al novissimo dì forse fia desto. Gli altri sgombraro subito il paese, che ebbono il piede e il buon avviso presto. Non sarebbe stato il pazzo a seguir lento, se non che era già volto al loro armento. Gli agricoltori, accorti agli altrui esempi, lasciano nei campi aratri e marre e falci. Chi monta sulle case e chi sui templi, poiché non son sicuri olmi né salci, onde l'orrenda furia si contempli, che a pugni, a urti, a morsi, a graffi, a calci, cavalli e buoi rompe, fracassa e strugge, e bene corridor chi da lui fugge. Già potreste sentir come ribombe l'alto rumor nelle propinque ville d'urli e di corni rusticane trombe, e più spesso che d'altro il suon di squille, e con spuntoni e tarchi e spiedi e frombe veder dai monti sdrucciolarne mille e altrettanti andar da basso ad alto per fare al pazzo un villanesco assalto. Qual venir suol nel sal solito l'onda mossa dall'austro che a principio scherza, che maggior della prima e la seconda, e con più forza poi segue la terza, ed ogni volta più l'umore abbonda, e nell'arena più stende la sferza, tal contra Orlando l'empia turba cresce, che giù da balze scende e di valli esce. Fece morir 10 persone e 10, che senza ordine alcun gli andaro in mano, e questo chiaro esperimento fece che era assai più sicur starne lontano. Trar sangue da quel corpo a nessun lece, che lo fere e percuote il ferro in vano, al conte il re del ciel tal grazia diede per porlo a guardia di sua santa fede. Era a periglio di morire Orlando, se fosse di morir stato capace. Potea imparar che era agitare il brando e poi voler senz'arme essere audace. La turba già s'andava ritirando, vedendo ogni suo colpo uscir fallace. Orlando, poi che più nessun l'attende, verso un borgo di case il camin prende. Dentro non vi trovò piccol né grande che il borgo ognun per tema avea lasciato. V'erano in copia povere vivande convenienti a un pastorale stato. senza il pane discerner da legiande, dal digiuno e dall'impeto, cacciato, le mani e il dente lasciò andar di botto in quel che trovò prima, o crudo o cotto. E quindi errando per tutto il paese dava la caccia e agli uomini e alle fere, e scorrendo pei boschi talor prese i capri gli snelli e le damme leggere, spesso con orsi e con cingiai contese, e con man nude li pose a giacere, e di lor carne con tutta la spoglia più volte il ventre empì con fiera voglia, di qua, di là, di su, di giù, di scorre per tutta Francia. E un giorno a un ponte arriva, sotto cui largo e pieno d'acqua corre un fiume d'alta e di scoscesa riva. Edificato accanto avea una torre che d'ogni intorno e di lontan scopriva. Abbiamo trasmesso la 14ª puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.